Cuando viene la cera, vieni, vieni, son qua, son qua, son qua, tutto per te. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, siamo vicinissimi. Quando cala il sole e la luna appar, tu non puoi mancare. Mentre bacio te, mentre baci me, lascia che ci guardino. Per gli innamorati questa è l'ora di sognare. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, siamo vicinissimi. Sotto braccio a te, sotto braccio a me, sembra di volare. Quando viene la sera, vieni, vieni, vieni, son qua, son qua, son qua, tutto per te. La la la la la la la la. Quando cala il sole e la luna appar, tu non puoi mancare. La la la la la la la la la la la la la. Per gli innamorati questa è l'ora di sognare. Quando viene la sera, vieni, vieni, vieni, son qua, son qua, son qua, tutto per te. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, stiamo vicinissimi. Quando cala il sole e la luna appar, tu non puoi mancare. Mentre bacio te, mentre baci me, lascia che ci guardino. Per gli innamorati questa è l'ora di sognare. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, stiamo vicinissimi. Sotto braccio a te, sotto braccio a me, sembra di volare. Quando viene la sera, vieni, vieni, vieni. Son qua, son qua, son qua, tutto per te.